Lettera ai Colossesi. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volere di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi di Colosse, fedeli fratelli in Cristo. Grazia e pace a voi da Dio Padre nostro. Noi ringraziamo costantemente Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando per voi, perché siamo stati informati della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che praticate verso tutti i santi a motivo della speranza che vi è riservata in cielo. Di questa avete udito l'annuncio mediante la parola di verità, il Vangelo, giunto a voi come in tutto il mondo, ove sta dando frutti e sviluppandosi, come anche tra voi, fin dal giorno nel quale udiste e conosceste la grazia di Dio nella verità. Questo apprendeste da Epafra, nostro diletto compagno di servizio e fedele ministro di Cristo in vece nostra. Egli ci ha informati del vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati, non tralasciamo di pregare per voi e di chiedere che vi sia concesso di conoscere perfettamente la sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, per comportarvi in maniera degna del Signore e piacergli in tutto, dando frutti in ogni genere di opera buona e crescendo nella piena conoscenza di Dio, irrobustiti con ogni vigore, secondo la potenza della sua gloria, per tutto sopportare con perseveranza e magnanimità, ringraziando con gioia il Padre che ci ha fatti capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Egli ci ha strappati dal dominio delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo amato Figlio, nel quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, poiché in Lui sono stati creati tutti gli esseri, nei cieli e sulla terra, i visibili e gli invisibili, troni, signorie, principi, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli esiste prima di tutti loro, e tutti in Lui hanno consistenza. È anche il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è principio, primogenito dei risuscitati, così da primeggiare in tutto, poiché piacque a tutta la pienezza di risiedere in Lui e di riconciliarsi per suo mezzo tutti gli esseri della terra e del cielo, facendo la pace mediante il sangue della sua croce. E voi, che un tempo, con le opere malvagie, eravate stranieri e ostili per il modo di pensare, ora, mediante la sua morte, siete stati riconciliati nel suo corpo mortale, per presentarvi santi, integri e irreprensibili davanti a Lui, purché perseveriate, saldamente fondati sulla fede e irremovibili nella speranza del Vangelo che avete udito, il quale è predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono divenuto ministro. Ora io gioisco nelle sofferenze che sopporto per voi e completo nel mio corpo ciò che manca dei patimenti del Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, della quale sono divenuto ministro in conformità al compito che Dio mi ha affidato a vostro riguardo, per realizzare la parola di Dio, il mistero che nascosto ai secoli eterni e alle generazioni passate, ora è stato svelato ai suoi santi. A questi Dio volle far conoscere quale fosse la splendida ricchezza di questo mistero tra i gentili. Cristo in voi, la speranza della gloria. Lui noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ognuno in ogni saggezza, per rendere ciascun uomo perfetto in Cristo. A questo scopo mi affanno, battendomi con quella energia che Egli sviluppa con prepotenza in me. Voglio infatti informarvi quale dura lotta affronto per voi

che è il vincolo della perfezione. E la pace del Cristo, alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni sovrana nei vostri cuori, e siate riconoscenti. La parola del Cristo abiti in voi con tutta la sua ricchezza. Istruitevi e consigliatevi reciprocamente con ogni sapienza, con salmi, inni e cantici ispirati, cantate a Dio nei vostri cuori con gratitudine, e qualunque cosa possiate dire o fare, agite sempre nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Donne, siate sottomesse ai vostri mariti, come conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre donne e non siate indisponenti verso di loro. Figli, obbedite ai vostri genitori in tutto, perché è gradito nel Signore. Padri, non provocate i vostri figli, perché non si perdano di coraggio. Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni in tutto, non solo sotto i loro sguardi, perché volete piacere a uomini, ma con cuore semplice, perché temete il Signore. Qualunque cosa facciate, agite con cuore come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che riceverete dal Signore come ricompensa l'eredità. Servite al Signore Cristo. Certo, chi commetterà ingiustizie riceverà la ricompensa della sua ingiustizia e non c'è riguardo alla persona. Padroni, date ai servi il giusto e l'onesto, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. Perseverate nella preghiera e vegliate in essa con riconoscenza. Pregate anche per noi, affinché Dio ci apra una porta alla parola per predicare il mistero del Cristo a causa del quale sono prigioniero, in modo che lo manifesti predicando come si conviene. Comportatevi saggiamente con gli estranei, cogliendo le occasioni opportune. Il vostro discorso sia sempre pieno di grazia, condito con sale, in modo da saper come rispondere a ciascuno. Su quanto mi riguarda, vi informerà Tichico, diletto fratello, fedele ministro e mio compagno nel Signore. Ve lo mando perché vi metta al corrente della nostra situazione e consoli i vostri cuori, insieme con Onesimo, fedele e diletto fratello che è dei vostri. Vi informeranno di tutte le cose di qua. Vi salutano Aristarco, mio compagno di prigionia, e Marco, cugino di Barnaba, nei cui riguardi avete ricevuto istruzioni. Se venisse da voi, accoglietelo bene. E Gesù, detto giusto. Di quelli che vengono dalla circoncisione, questi sono gli unici che collaborano con me al regno di Dio. Furono loro il mio unico conforto. Vi saluta Epafra, vostro concittadino, servo di Cristo Gesù. Egli lotta continuamente per voi nelle sue preghiere, affinché stiate saldi, perfetti e sinceramente dediti a compiere la volontà di Dio. Infatti attesto che si preoccupa molto di voi, di quelli di Laodicea e di Gerapoli. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. Salutate i fratelli di Laodicea, ninfa con la chiesa che si raduna in casa sua. Quando avrete letto questa lettera, fatela leggere anche nella chiesa di Laodicea. Anche voi leggete quella che riceverete da Laodicea. Dite ad Archippo, bada di compiere bene il ministero che hai ricevuto nel Signore. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi.